YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, il perdibile della settimana. È ovvio questa settimana solo del Festival di Sanremo, perché, caro Daniele, caro Chiocciola di Bellasio, siamo nella sala stampa del Festival di Sanremo. Sì, finalmente ce l'ho fatta, cara et Marta Cagnola. Potete usare ovviamente tutti voi l'hashtag RadioTube, cancelletto RadioTube. Siamo nella sala stampa di Sanremo. In realtà non è che parliamo proprio solo di Sanremo, perché questa settimana si è tutta intrecciata nei anche in Twitter, no? Tu vedevi ondata Sanremo, ondata Renzi 1, ondata Sanremo, ondata Renzi 1. Quindi un po' queste cose si intrecciano. Io ho parlato anche un po' di, c'è un po' di renzismo subliminale a Sanremo. Ci sono successe un po' di cose che un po' ricordano adesso, era lo slogan di Renzi alle prime, insomma, un miscuglio. Quindi? Beh, quindi intanto dobbiamo dire che Matteo Renzi Sanremo lo voleva vedere. Se ci sono delle domande, rapidamente rispondo, non vorrei farvi perdere Sanremo. Noi lo dicevamo da settimane, Sanremo è un po' il Super Bowl italiano, che dire, tutti lì a twittare, per la prima volta insomma anche dei commenti a volte un po' acidi, un po' cattivelli, questo è il bello della social TV. Sì, cioè nel senso che adesso i social network creano quel comune sentire positivo o negativo sugli eventi che poi in parte influenzano gli eventi, insomma in un certo senso quasi Twitter precede e accompagna gli eventi e in un certo senso li determina. Tu hai seguito alcune puntate da casa e alcune puntate qua dalla sala stampa del festival, come ti è parsa la differenza? Oddio, non mi aspettavo la domanda, dunque io ho trovato la puntata di Sanremo Club strepitosa, bellissima, solo che l'ho vista dalla sala stampa, quindi non so se ero anche influenzato, però ho visto i giornalisti che di solito anche giustamente svolgono il ruolo di critico in maniera anche assertivo e a volte anche un pochino urticante. Io in quella serata lì li ho visti divertirsi e partecipare, comunque Gino Paoli, Cristiano De André, l'inizio con Mengoni, insomma. Beh, qui è divertente, io infatti ti ringrazio molto che mi hai portato, spero che anche l'anno prossimo, se faccio il bravo, porto lo zaino. Ma intanto vediamo chi lo conduce questo Sanremo, perché si parla di un nuovo Fazio, di un Carlo Conti, vabbè lo scopriremo. Chissà se sarebbe disposta a rifare Sanremo Luciana Lettizzetto. Noi l'avevamo già parlato la scorsa settimana con i conduttori, anche col direttore di rete che poi sentiremo più avanti, della social TV e del fatto che spesso arrivino critiche anche feroci. Ecco cosa ha raccontato Luciana Littizzetto proprio a questo proposito durante una conferenza stampa. Secondo me c'è una rabbia diffusa che l'anno scorso non c'era. C'è una rabbia sociale, una acredine, una malmostosità che secondo me viene fuori. E viene fuori soprattutto anche per esempio nei social network, no? Nei Twitter, anni fa non esisteva Twitter. Se ci fosse stato Twitter quando c'erano gli altri festival così potente, probabilmente avrebbe intercettato gli stessi umori di questo, perché quello è di solito un collettore quasi solo di critiche negative. Ancora prima dell'avvento di internet, il nostro Pippo Baudo probabilmente avrebbe intercettato anche lui, pur essendo un mito della televisione, sentimenti negativi. Adesso Twitter praticamente mette sul telefonino semplicemente quello che dicono le persone da casa. Cioè tu sei persona da casa davanti alla televisione, una volta non arrivava a noi quello che dicevano le persone da casa, adesso arriva e quindi lo leggiamo e quindi i giornali lo commentano. Però è una cosa naturale, normale, è uno spettacolo che viene visto da un sacco di persone e quindi un sacco di persone possono dire la loro. Mia mamma tutte le volte che le telefono mi dice: ma non potete mettere un po' di fiori lì su quel palco, due fiori, anche solo due gorbei, due cachepot, qualcosa così, e ostinatamente me lo ripete. E Daniele, non deve essere facile quando tu sei lì e ti arrivano echi di tweet super cattivi. Io quando a me arrivano tweet cattivi, io a volte ci rimango male, non lo so, anche le io ci rimango male, chissà loro. No, basta rispondere con gentilezza, si conquista sempre gentilezza. Sì, però non ho capito, tu continui a fare domande e svicolare. Questo Sanremo ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Parliamo di TV per il momento. Allora, parliamo di TV, io ti dico che preferisco uno spettacolo ben costruito a uno scatolone in cui vengono buttate cose così, tanto perché è Sanremo e Sanremo, lo spettacolo era ben costruito, però come sempre accade quando uno spettacolo è così a orologeria, se qualcosa non funziona poi non funziona più tutto il resto. È partito male, mi sembra che il castello di carte abbia faticato a reggersi in piedi. Poi comunque io sono una tifosa del Sanremo ben scritto e parleremo anche di questo tra poco, sì, della scrittura. Molto tifosa anche di un protagonista strano di Sanremo, no? Perché uno a Sanremo si aspetta di vedere le stelle, non di vedere gli astronauti. E che astronauti? Allora, un altro degli aspetti del social networking, della social TV, è appunto critiche cattive, ma anche il fatto che molti che magari non guardavano Sanremo hanno cominciato a vederlo. Ed è proprio il caso di questo personaggio, che è Luca Parmitano, l'astronauta. Lui ha detto: ma insomma, ascolto altra musica, però su Twitter mi diverto come un pazzo. Ho seguito il Festival di Sanremo come tutti gli italiani, è un ricordo quasi bucolico che ho di quando ero piccolo, guardavo con i miei genitori, quando il Festival di Sanremo era lo spettacolo da guardare in televisione. Poi per moltissimi anni, per lavoro, per i tanti spostamenti, non ho neanche avuto una televisione, per anni non ho avuto una televisione, quindi ho mancato un po' negli ultimi anni, non ho avuto la possibilità di seguire. Fino a quando c'è stato un nuovo modo di esplorare il Festival di Sanremo, che è stato attraverso i social media, perché nei social media adesso c'è di tutto, i commenti al Festival di Sanremo, che siano positivi, che siano negativi, comunque sono un indice di quanto il festival sia seguito, chi lo ama, chi lo odia, ma comunque lo segue. Allora Daniele, ne abbiamo tanti di argomenti sul campo. Ma intanto chissà se funziona Twitter nello spazio. Ma certo, lui twittava le foto, non ti ricordi? Ah no, vedi, io non lo seguivo, tu lo seguivi? Io lo seguivo, vedo delle foto bellissime. Ah, quindi funziona? Funziona. C'è il wifi sullo spazio, su Marte. C'era anche in sala stampa del Festival di Sanremo, anche questa era una grossa notizia, non c'era mai stato. Vabbè, insomma, vabbè. Daniele, noi ci risentiamo tra poco perché tra poco andiamo... parliamo appunto di quelli che scrivono le cose della TV, perché la TV si scrive, la TV è matematica, come dice Maestro Freccero. YouTube. Bentornati quindi a Radio Tube, come sempre l'appuntamento che vi fa ascoltare il perdibile, l'imperdibile, il perdibilissimo, questa volta dalla sala stampa del Festival di Sanremo. Li abbiamo minacciati tutti e li abbiamo fatto, siamo qui. Ci siamo anche fatti un selfie apposta per provare che siamo nella sala, e che soprattutto io sono nella sala stampa del Festival di Sanremo, che quasi ancora non ci credo. Lo twittiamo il selfie? Sì, dopo lo twitto senz'altro. Proprio per dimostrare anche per mamma, sono a Sanremo. Allora, noi abbiamo deciso di andare dietro, più che dietro le quinte, proprio dentro le quinte. Siamo andati a incontrare una delle anime del Festival di Sanremo. No, perché si parla molto appunto della sceneggiatura di un grande evento televisivo che deve rispecchiare in qualche modo la sceneggiatura di un grande paese come l'Italia. E quindi siamo andati da uno degli autori di questa sceneggiatura a chiedergli delle cose del dietro le quinte, soprattutto quando le quinte si aprono, cioè quando si pari o sale, esatto. Non subito. E per spiegarci che lavoro fa un autore televisivo. Era una mia curiosità. E quindi abbiamo incontrato Pietro Galeotti. Dopo aver condiviso il microfono con Cruciani, questa volta me lo dai, devo fare io il conduttore. Dunque, abbiamo, oltre che un amico, uno degli autori. Tra l'altro Chiambretti vi parla tantissimo di voi durante la trasmissione alla radio. Hai mai sentito durante questi giorni Pietro Galeotti? No, non l'ho mai sentito. Cosa dice? Parla spesso degli autori, questi autori, mi dice, questi autori molto intellettuali. Ecco, che lavoro fa l'autore e se siete la parte intellettuale del festival? No, intanto io rappresento la quota non intellettuale degli autori del festival, quindi diciamo non posso che parlare a nome mio. Gli autori, cioè, si riferiva a altri, dici? Si riferiva certamente ad altri, potrei anche dirti i nomi, ma non lo faccio. Che lavoro fanno gli autori del festival? Fanno un lavoro... insomma, è difficile da spiegare, ma il lavoro del festival in realtà parte 9 mesi prima che inizi il festival ed è costruito così. Tu per... diciamo da giugno, luglio inizia a lavorare un progetto che 24 ore prima della messa in onda si rivela totalmente inutile. Questo è sostanzialmente il lavoro dell'autore del festival. Quindi diciamo hai lavorato per 9 mesi per niente? Ho lavorato per 9 mesi? No, per niente no, perché poi diciamo rimangono delle tracce nel fatto che, per esempio, siccome gli autori di questo festival sono anche la direzione artistica, perlomeno i cantanti sono rimasti. Il cast è rimasto, diciamo la scenografia è rimasta, diciamo una certa parte artistica è rimasta. Quello che cambia, ed è totalmente imprevedibile, ed in questo senso il lavoro dell'autore del festival è un lavoro doppio, prima e un minuto dopo l'inizio del festival, perché quello che noi chiamiamo il mood, diciamo così, del festival non lo puoi individuare, lo puoi con un colpo di fortuna indovinare, prevedere, e questo va bene, oppure ti viene addosso in conseguenza di quello che accade dentro il palco dell'Ariston. In questo caso, per esempio, questa edizione è stata volente o nolente contrassegnata da 2 episodi consecutivi nei primi 5 minuti del festival, totalmente imprevedibili ed entrambi di segno totalmente negativo. Una rottura tecnica, diciamo, che ha determinato intanto il fatto che tutti siamo invecchiati di 28 anni in un secondo, perché il sipario che non si apriva, se non si fosse aperto, avrebbe determinato l'impossibilità di svolgere la serata, e quindi questo, diciamo così, a parte che non è un bel segno, ma comunque in generale rende molto difficile una partenza a cuor leggero. E due, questa, chiamiamola, diciamo, estemporanea protesta che ha determinato a sua volta un atteggiamento successivo di tutti noi, di chi andava in scena, ma anche di noi autori, che non siamo stati in grado, dico onestamente, di riportare la serata in un binario che era quello che volevamo noi, di leggerezza, di divertimento, di bellezza, tutto quello che ci eravamo detti per gli 8 mesi precedenti. Da quel momento in avanti ci siamo resettati. Ci abbiamo messo 2 ore, diciamo così, intorno alle 10:30, alle 11 della prima serata abbiamo ripreso fiato, da lì in avanti siamo ripartiti e da lì in avanti abbiamo costruito una cosa che non assomigliava più minimamente a quello che avevamo pensato e l'abbiamo inseguita, un po' pedala di Frankie Energy, che era in questo senso profetica. La bellezza è pane quotidiano. Attenzione un attimo! La bellezza un attimo solo! Va cercata. Un attimo d'attenzione! Va difesa. Di tutelata. No, non possiamo più mangiare. No. Ci stanno mandando le cose. Allora, no, accendete le luci per cortesia. No, mi dispiace. Mi chiedo che cosa si prova, allora, in quel momento lì, perché noi quando l'abbiamo visto dalla sala stampa abbiamo pensato veramente al panico. In quel momento cosa potete fare e cosa non potete fare? Guarda, io ti dico, io personalmente, tra l'altro, per una serie di casualità ero vicino al fianco di Fabio un attimo prima, cosa che faccio sempre alla vigilia di ogni entrata in scena, soprattutto delle prime, vabbè, insomma. E quindi ci eravamo appena detti, dai, si va dentro, finalmente partiamo, ma veramente contenti. Quando si è interrotta la cosa, io ho guardato lui, che è sbiancato, perché entrambi abbiamo guardato il tecnico del computer che doveva regolare l'alzata, che è letteralmente sbiancato. E allora ci siamo detti, che cosa fare? Abbiamo detto, intanto esci e poi speriamo che parta. Questo ci siamo detti, ma... non puoi fare altro che quello. Quando invece è accaduta, cioè un minuto dopo c'è stata la protesta, lì era totalmente impossibile comunicare perché Fabio era dentro. Noi, tra l'altro, il Teatro dell'Ariston, per chi non lo conosce, sappia che il Teatro dell'Ariston è il luogo meno praticabile del pianeta, a meno che non si sia un operaio disperato, in quel caso si trovano tutti gli accessi. Per tutti gli altri che non sono in quella condizione professionale è impossibile trovare varchi, per cui non potevamo proprio comunicare. Ci siamo affidati al talento straordinario di Fabio, che secondo me ha retto perfettamente la situazione. Uno disegna per 9 mesi uno specchio del paese, poi in 9 giorni il paese cambia completamente. Per semplificare ai massimi, uno disegna il festival del passaggio generazionale moderato, dell'abbraccio tra le generazioni, e improvvisamente il paese diventa, insomma, cambia governo, c'è il duello Renzi-Grillo, e probabilmente una petroliera grande come il festival, anche soltanto a girare di 3 gradi, ci impiega un po'. Sì, esattamente così, è esattamente così, non c'è niente da fare, ma è veramente il bello del Festival Sanremo. Questo è personalmente il mio quinto. È quasi inutile in teoria preoccuparsi del festival, se non per la parte logistica, diciamo così, perché davvero poi il festival rende in quel momento esatto il sentimento che attraversa prevalentemente il paese. In questo momento evidentemente il sentimento è un pochino questo, un pochino è inceppato. È come il sipario. È come il sipario, il paese è un po' inceppato, è un po' arrotolato su se stesso come i cavi che hanno inceppato Sipa, e questo era non potevamo prevederlo. Commenti feroci su Twitter, la gara, le battute sagaci. Mi diceva Daniele che ti conosce bene che tu non sei sui social, però li avete guardati. Tra l'altro a un certo punto quando bisognava proclamare una canzone vincitrice o l'altra delle canzoni di ogni biga, a un certo punto sul palco l'hanno detto, su Twitter si stanno lamentando che non dite la prima o la seconda, insomma. Alla fine entrano comunque questi social? Nella costruzione del programma no, entrano molto perché ormai sono un elemento artistico, fa parte del cast di un programma. Ormai i programmi, soprattutto i programmi evento, Sanremo è l'evento per eccellenza della TV italiana perlomeno, sono di fatto, spostano il proprio raggio d'azione ormai appunto sui social. No, io non ne faccio parte, non ho Twitter, Facebook, niente, quindi diciamo vivo serenamente la mia vita. Diciamo. Stai sereno Pietro, diciamo. Sto serenissimo. Chi lo frequenta, come molti dei nostri collaboratori, della redazione eccetera, ci informa, mi informa, e io insomma diciamo serenamente prendo atto, diciamo non mi scompongo, ecco. Vedrai che quando crescono i figli, anche solo per controllarli, questo magari sì. vedi lo rifaresti, visto che ne hai già 5? Lo rifaresti? Questa domanda ogni tanto. Io spero di fare i prossimi 5, mi piace moltissimo. Cioè, per chi fa questo mestiere è il massimo, perché ti offre il massimo della intanto della tecnica, cioè adesso sono cose diciamo così che poi non si vedono, ma i tecnici della RAI hanno fatto un lavoro mostruoso, perché noi abbiamo messo in scena nel giro di 2 ore un'orchestra di 60 elementi. Per flash mob e concerto di Arbore, dici? Per la Fenice, per la Fenice Barabbada. Per il flash mob abbiamo dovuto 35 persone microfonate che cantavano in diretta da 35 posti di punti diversi. Insomma, Arbore ovviamente con tutta la cosa, e tutto questo nel giro di 2 ore, cioè è una cosa clamorosa. Allora per logistica, per tecnica, ovviamente per economia, cioè il Festival Sanremo ormai è uno dei pochi luoghi della TV in cui ci sono ancora un po' di soldi da spendere, per visibilità, per divertimento, è il massimo. A me piace tantissimo, non me lo faranno più rifare tempo dopo quest'anno. Ma perché invece? No, scherzo, figurati, però almeno questo, cioè, bisogna sperare che il Milan non vada avanti in Coppa, io lo dico anche da interista. Esatto, cioè, beh, esatto. È utile questo. No, dopo mi spiega perché, non lo so perché. Perché il Milan ha fatto il 18% contro Atletico Madrid. Un altro elemento del festival è per esempio la settimana messa in onda, che questo è decisivo. Noi l'anno scorso siamo andati in onda nella settimana precedente a questa, cioè quella di San Valentino per intenderci, e quest'anno avremmo voluto rifarlo. Siccome ci sono i mondiali di calcio, questa settimana la Coppa Italia è stata anticipata a quella settimana, e la RAI detiene i diritti della Coppa Italia, non si poteva andare in onda, questo ha determinato uno slittamento. Tutto questo, che sembra una sciocchezza qualunque, in realtà ha un impatto enorme sul Facebook. Non su Marta perché non è romantica. No. Quindi lo rifà, quindi non ho capito se è una notizia o lo rifaresti. No, allora sai secondo me cos'è? No, perché anche abbiamo oggi chiesto a un pilota se avrebbe voglia di guidare ancora una Ferrari. Esattamente così. Esattamente così. Era Pietro Galeotti, abbiamo scoperto come si guida la macchina del festival e anche che è abbastanza bello guidarla la macchina del festival. Che si divertono, nonostante lo stress, un grande lavoro. Che serve, secondo te, nel lavoro l'amicizia aiuta o non aiuta? Perché secondo me un autore poi alla fine deve essere amico del conduttore, perché anche il conduttore è un po' autore, insomma si crea un rapporto, come si può chiamare? Ma i sogni aiuta, com'è che era? No, era per capire se io e te possiamo essere amici lavorando assieme. Vabbè, comunque, non lo so, insomma, ci pensiamo durante la pausa. Pensiamoci, c'è traffico? No, c'è una pausa e ci troviamo tra poco per scoprire come c'è traffico. Cioè, Laurelia, adesso ascoltiamolo insieme, che magari ci può servire per tornare a Milano. YouTube. Bentornati a RadioTube, bentornati nella sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo. Ci siamo spostati, prima eravamo tra i banchi dei giornalisti, ci siamo spostati perché c'è una conferenza stampa in corso. Si sentirà la voce di Paolo Nutini di sottofondo. Ed è un peccato, lo dico per le ascoltatrici, che non si possa vedere Paolo Nutini, vedere alla radio Paolo Nutini. Poi ti twittiamo la foto. Twittiamo la foto, dai. Daniele, dobbiamo parlare degli ascolti di questo Sanremo, non possiamo essere reticenti, dobbiamo dare un po' di numeri, non tanti perché i numeri alla radio annoiano, ma dobbiamo darli. Allora, prima puntata, quasi 11 milioni di telespettatori, meno 15,7% rispetto all'esordio dell'anno precedente. Le altre reti generaliste hanno guadagnato nel complesso quasi 4 punti di share rispetto al 2013. Terza puntata, abbiamo qui insomma un risultato che in termini di share eguaglia quello ottenuto da Pippo Baudo nell'infelice edizione 2008. Insomma, nella quarta c'è stato un pochino di ripresa, in quella di Sanremo Club, però tappi di champagne io non ho sentito stapparne qui in Rai, dobbiamo dirlo, Daniele. Ma la scienziata dei numeri sei tu, io sinceramente non so dire. Sicuramente la televisione sta cambiando, ormai i numeri, abbiamo tre telecomandi in mano più o meno di solito, 45 canali più o meno che frequentiamo spesso, più c'è il computer, cioè guardiamo un sacco di cose il giorno dopo, ci facciamo dei nostri palinsesti, ci facciamo le nostre trasmissioni preferite durante la giornata tra Twitter, i siti, le varie cose. Probabilmente il grande evento soffre di fronte a questa invasione dei micro eventi che poi ogni telespettatore si ricompone lui da solo in un unico palinsesto suo. E poi c'erano quelli che addirittura in sala stampa del Festival di Sanremo come te stavano guardando gli streaming della formazione. Ma non mentre c'era ovviamente la puntata. Infatti le consultazioni al Quirinale sono state fatte in modo che la lista dei ministri sia data un attimo prima della lista dei cantanti giovani in gara, quindi era tutto calcolato. Okay. Quindi d'altronde l'aveva detto Renzi, lasciatemi vedere. Sì, no, l'abbiamo anche sentito, quindi assolutamente questa settimana è stata voluta proprio nella sceneggiatura del grande romanzo politico-culturale italiano degli ultimi anni, si è voluta una settimana in cui ci fosse contemporaneamente un Sanremo peraltro con molti giovani, e anche se poi tutti lo accusano di aver avuto un effetto nostalgia, una cosa un po' strana però, e contemporaneamente un nuovo governo con parecchi giovani. Chissà, anche se dovremmo fare A te che piacciono gli autori, c'è qualcosa di autoriale in questo? Autorale, un mega autore, il grande autore, non il grande vecchio. I tweet è difficilissimo analizzare. Noi abbiamo preso ad esempio quelli di una serata, quella del venerdì sera, e le analisi di sanremotweet.com, però insomma non c'è un'analisi univoca. Allora, in una serata, oltre 100.000 tweet inviati da quasi 30.000 utenti, il sentiment, a me piace un sacco questa cosa del sentiment, più critiche che complimenti per questo festival, sparita Luciana di Tizzetto, solo 1.821 tweet, meglio Fabio Fazio, grazie soprattutto all'effetto non positivo delle sue imitazioni, 5.000 tweet, ma a me piace quando imita Pippo Baudo, a me piace un sacco. Beh sì, i due Angela sono secondo me il suo capolavoro. Beh, diciamo che Twitter comunque chiama a parlare male, chiama a fare la battuta. Quest'anno, se non ho capito male, l'hashtag ufficiale ovviamente era Cancelletto Sanremo 2014. L'altro hashtag, sempre per confermare l'intreccio politica e altro, diciamo così, se non ho capito male, l'altro che ha preso un po' piede era Stai Sanremo, no? Stai Sanremo era andato abbastanza bene. Gli artisti invece, noi ogni volta ci poniamo il problema dei talent, della gente che è stata conosciuta tramite i talent. Io direi che ormai non ne parliamo più nel caso di una come Noemi, che il talent l'ha fatto veramente un secolo fa. Noemi è stata la più twittata in quella serata lì, 4.400, seguita... Per la pettinatura, immagino. Beh, non era male, dai, insomma. Ardita. Ardita. E poi Arisa, gli unici commenti positivi in maniera totalmente univoca: Cristiano De André 2000 tweet in una serata. Tra gli ospiti vince facile ovviamente Marco Mengoni, e qua l'abbiamo già detto l'altra volta, c'è l'esercito di Mengoni, sono questi personaggi che sono particolarmente amati. Abbiamo parlato poco fa, Daniele, della frammentazione degli schermi, no? Non c'è più solo il televisore, guardiamo la TV anche in streaming, bisogna tenere conto di tanti dati, il telefonino, i palinsesti che si sono scomposti, però a questo punto è impossibile non chiederselo: come si fanno a fare ancora i grandi eventi? Con quali budget? Si possono ancora fare gli ascolti? Era solo un'edizione così un po' da ripensare, oppure sarà sempre così per Sanremo? Lo abbiamo chiesto a chi poteva darci un'indicazione. Un grande twittatore, peraltro, direttore e twittatore. Chiocciola Gianca Leone, quindi il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone. Dunque, intanto la prima cosa è farlo. Cioè non spaventarsi per il panorama che sta cambiando, perché fino a qualche anno fa c'erano 7 canali generalisti e un'offerta a pagamento per 4 milioni e mezzo di abbonati. Oggi ci sono 7 canali generalisti, un'offerta a pagamento per 4 milioni e mezzo di abbonati, più 98 canali gratuiti sul digitale terrestre. Questo ha comportato uno sconvolgimento prevedibile e previsto dei consumi, al punto tale che ogni anno c'è una forte erosione dell'offerta generalista, del consumo dell'offerta generalista, che è di circa 2-3 punti l'anno. Quindi questo vuol dire che l'insieme di Rai Mediaset generalista più o meno vede al 35% la Rai, al 30% Mediaset, quindi 65% fanno i canali generalisti, 35% oggi tutti gli altri canali, ed è un mondo nuovo. Una volta Rai e Mediaset facevano il 90% di ascolto. Chiaramente questo è un quadro totalmente cambiato. La cosa importante per chi fa TV generalista, io rappresento la TV generalista per eccellenza, cioè Rai 1, è cercare di frenare questa, diciamo, e devo dire come Rai 1 ci stiamo riuscendo in generale. Rai 1 ha fatto nel 2013 gli stessi risultati del 2012, nel 2014 toccano ferro, si appresta a fare gli stessi risultati del 2013, stiamo tenendo da questo punto di vista, ma non è facile. È chiaro che un evento, quindi adesso veniamo a Sanremo, come Sanremo si inquadra in questo contesto, ed è ovvio che se tutto quello che viene fatto magari ha dei momenti di inceppamento, c'è cioè qualcosa che non funziona, non scatta un meccanismo, alcune canzoni piacciono meno, alcune cose piacciono meno, una volta lo si vedeva lo stesso, cioè, comunque si vedeva il festival, anche se non piaceva o anche se piaceva meno. Oggi, con tutta l'offerta che c'è in giro, se qualcosa non va, si va subito da un'altra parte, perché il pubblico sa che si può andare altrove, perché c'è tanta altra roba da vedere. Quindi, senza fare riferimenti a persone realmente esistenti, non basta più una ragazza con un tatuaggio che scende le scale? Sì, no, né un tatuaggio, né una farfalla, né... Per caso, assolutamente. No. Ci vuole una costruzione sempre più forte. Allora, diciamo che la crescita del consumo dell'offerta tematica in generale, a scapito di quella giornalista, impone, per i canali importanti come Renoué, di costruire sempre di più il racconto, cioè di essere sempre più accurati nella costruzione di un programma, perché altrimenti non si viene perdonati. Ecco, ma non sarà che lei è molto abile anche con Twitter, no? Noi vediamo su Twitter cambiamenti di umore rapidissimi. La Rai in generale, Rai 1 in particolare, il Festival di Sanremo ancora più in particolare, di solito sono lo specchio del paese. È molto difficile smuovere delle corazzate così grandi seguendo l'umore che cambia così velocemente. Parliamoci chiaro, il Festival di Sanremo è iniziato con un clima politico e finisce con un clima politico completamente diverso, sia nazionale sia internazionale. Forse questi cambiamenti sono troppo rapidi per la grande televisione generalista? Ma troppo rapidi, se noi siamo attenti a quello che succede, no. Faccio un esempio, senza pensare alla cronaca esterna, il fatto di aver deciso quest'anno di puntare su PIF per fare il pre-festival è il segno di un cambiamento che volevamo anche proprio di struttura narrativa, cioè uscire fuori dalla classica anteprima del festival e andare su qualcuno che racconta in modo non convenzionale quello che succede ovviamente intorno al festival. Ciao, sono PIF, sì, quello di Sanremo e San Romolo. Ieri è andato in onda il programma subito dopo di me, quello nuovo, il festival di... non so se l'avete visto. Sono successe un sacco di cose, però anche a me sono successe un sacco di cose ieri. Ho cominciato la mia giornata incontrando Daphne, una storica stilista di Sanremo che ha vestito molte dive che hanno cantato all'Ariston. Questo è un abito che appartiene alla Pizzi. Ah! Cioè, sì. Io non vorrei essere cattivo per la buonanima di Nina Pizzi, la facevo un po' più in casa. Ma una volta, quando era giovane, no, eh. Avere portato in casa, avere avuto Jovanotti che fa il suo concerto e fa il film del suo concerto, parlare di temi come la cultura in seconda serata, parlare di temi come Mission, dove abbiamo ovviamente raccontato una realtà tostissima, durissima, sono dei modi che noi cerchiamo su Rai 1, che la rete giornalista che deve fare ascolti, di raccontare anche quello che sta succedendo. Fare Petrolio con Duilio Giammaria, che ci ha consentito come programma di raccontare quello che succede nell'Italia e nel mondo e come l'Italia può farcela se riuscisse a credere più in se stessi. Allora noi stiamo cercando anche all'interno del canale giornalista per eccellenza di avvicinarci sempre di più alla realtà. Qualche volta ci si riesce di più, qualche volta ci si riesce di meno, ma certamente il nostro compito è questo, ci stiamo provando. Direttore, magari l'anno prossimo Sanremo potrà fare un altro milione in meno perché la televisione sarà cambiata ancora, ma tu come la vedi in prospettiva? Cioè televisione di grandi eventi, ma con quali numeri, con quali investimenti possibili? Guarda, la televisione di grandi eventi ci sarà sempre, che sia il calcio con i mondiali, gli europei, che siano le Olimpiadi laddove saranno di nuovo su Rai, che sia Sanremo, Miss Italia no, Miss Italia come abbiamo preso un altro tipo di decisione. Questi eventi resisteranno sempre, un anno faranno il 35, il 40 o il 45%. L'evento in quanto tale, Montalbano è un evento, continua ad andare anche meglio del solito, Don Matteo è un evento, tra poco lo diventerà anche Braccialetti Rossi, mi auguro, perché è anche un modo di raccontare la fiction non convenzionale senza star. Allora, gli eventi in quanto tali sono comunque a riparo. Poi insisto, è l'alchimia di quell'evento che quell'anno può decretare un successo maggiore o minore. Il problema non è l'evento, il problema è la quotidianità. Perché noi sappiamo che l'offerta tematica nel pomeriggio e in seconda serata sono di grandissima aggressività, cioè sono bravi a fare, ad andare incontro, diciamo, a delle esigenze precise. Pensate che il pomeriggio su TV 2000 il Rosario da Lourdes arriva a fare il 4%. Per mezz'ora, a questo solo i canali tematici possono dare una risposta. Ecco perché dico che da questo punto di vista una TV giornalista si deve sforzare il più possibile nel giorno e non negli eventi di riuscire a raccontare sempre meglio la realtà. Quindi Miss Italia non torna su Rai 1? Torna, no, perché direttore, Daniele Bellasio è disperato, voleva Miss Italia? No, nel senso che ci vogliono punti di riferimento, no? Come il Festival di Sanremo su Rai 1, anche Miss Italia su Rai 1. Ma su Miss Italia abbiamo preso una decisione non moralistica, non etica, assolutamente. Semplicemente io ho ritenuto che, almeno per Rai 1, l'evento Miss Italia fosse superato da tante altre cose. E raccontare la donna, soprattutto da un punto di vista estetico, per carità c'era anche dell'altro, mi sembrava onestamente superato, archeologico, diciamo, da questo punto di vista. Però ovviamente ci sono altri canali che lo hanno fatto e mi fa molto piacere che viva ancora questa esperienza, ma certamente non è più l'evento di una volta. Vabbè, però intanto viva Sanremo, grazie direttore. Viva Sanremo, grazie a voi. YouTube. Oh, Daniele, come passa veloce il tempo quando ci si diverte, anche qui da Sanremo. Che stanchezza. Abbiamo lasciato i cantanti in fondo. Abbiamo lasciato cantanti in fondo perché abbiamo parlato di televisione, del futuro, di come sarà la televisione. Abbiamo parlato della macchina del Festival di Sanremo, siamo andati a curiosare dietro le quinte. Insomma, musica, niente, dobbiamo parlare un po' di cantanti, anche perché anche loro usano i social. Sì, sono molto bravi nello scrivere i loro profili, alcuni li usano benissimo, altri li usano in modo più tradizionale. Tu mi hai segnalato un cantante bravissimo anche a usare i social network. Sì, è giovane, molti l'hanno definito la sorpresa di questo festival, ma insomma sorpresa non è, perché già l'anno scorso era andato particolarmente forte. Renzo Rubino è uno che sa usare molto bene Twitter e non solo, allora siamo andati a trovarlo, ecco cosa ci ha raccontato Renzo Rubino. Io la sto vivendo con grande tranquillità, divertimento, voglia di giocare. E anche ma mi sto divertendo sul serio, cioè per me è davvero come fare l'amore ogni volta che salgo sul palco. Cioè devo fare la cosa più bella del mondo, devo cantare le cose che sono mie e insomma io sono felice, a prescindere da come vada. L'ho presa un po' come, ho un approccio molto zen a questo festival, perché davvero non devo, secondo me, dimostrare niente a nessuno, cioè devo solo fare quello che è mio. No, noi in questa trasmissione che conduciamo, che si chiama Radio Tube, in questa trasmissione parliamo di social. Tu sì. Stai facendo dei diari in rete, usi Twitter, fai le foto. Che cosa ti dà di più nel rapporto con chi ti segue? Ma sicuramente, visto che ormai siamo tutti controllati, siamo tutti raggiungibili, c'è veramente il grande fratello, si è avverato, a questo punto facciamolo per bene. Siamo degli apparecchi comunicativi e molto spesso chi ci ascolta vuole sentir dire da noi delle cose, sempre con moderazione, sempre con moderazione, perché anch'io vado fuori di testa alcune volte. In questo saremo tutti cattivelli sui social, tu come le prendi le critiche, le cose? Ma nei miei riguardi non ho letto cattiveria, devo essere sincero, anzi non mi aspettavo una sorta di avvicinamento da parte di gente che magari prima non mi conosceva. Credetemi, anche le critiche mi fanno sorridere. Voi fin quando mi vedete col sorriso vuol dire che andrà tutto, va tutto bene. Sono talmente fiero, ma non fiero, cioè sono sincero con me stesso, cioè la mia musica è quella lì, quindi può piacere, non può piacere. Uno dice pure, può dirmi anche una cosa negativa, ma a me non, cioè mi fa sorridere, anzi vado alla ricerca di quelli che criticano in maniera negativa, perché mi fa sorridere anche quella cosa lì. Ma io ho due curiosità. Una, se ci puoi far capire a chi non l'ha mai fatto che cosa si prova quando si sale sul palco, cioè che tipo di paura, che tipo di sensazione fisica. Questa è la prima. E la seconda, perché Macabro Circense nel profilo di Twitter? Ma salire lì è come aver mangiato la peperonata il giorno prima. La sensazione è esattamente quella lì, mi posso assicurare. Oppure, che ne so, avete presente, che ne so, il dentista, prima la sala d'attesa del dentista, quella cosa lì, cioè la sensazione è quella, poi cambia tutto il resto, però la sensazione è precisamente quella, o prima di fare un esame, no? E Macabro Circense, una volta mi disse un giornalista, voleva definire il mio genere musicale, e disse: ma guarda, non saprei effettivamente come definire la tua musica, posso dire secondo me è Macabro Circense. Questa cosa l'ho detto, posso prenderla perché mi piace tanto. Così come l'altro giorno un'orchestra mi ha detto: sai Renzo che per sempre poi basta, è old fashion. Questa cosa l'ho acchiappata immediatamente e ho detto: guarda che te la rubo. Se solo si potessero inventare le stelle nelle gallerie indifferenti delle metro, smetterei di aver paura di correre per andare chissà dove. Ogni volta che mi specchierò e guarderò lontano, incrocerò lo sguardo sognante di un bambino. Daniele, ti ha conquistato Renzo Rubino? Ti è piaciuto? Sì, sì, molto simpatico. Poi già dal profilo si capiva che era un personaggio da conoscere, dal profilo di Twitter. E c'è un altro proposito di Twitter, c'è un artista tra i campioni che ha confessato di aver saputo di essere stato preso a Sanremo proprio da Twitter. Beh, del resto Obama ha detto su Twitter di essere stato rieletto Presidente della Repubblica. È paragonabile la cosa? È paragonabile perché lui stava prendendo un aereo, se ne voleva andare in Messico, tanto non m'hanno preso. C'era un amico che stava... Vabbè, non ve lo racconto perché ce l'ha raccontato lui stesso, Francesco Sarcina. Mi stavo anche un po' logorando per questa cosa, per volerlo, perché ci tenevo a farlo, come molti infatti poi ci sono rimasti male, perché una roba era alla fine importante... Alla fine però ho detto vabbè basta, non è che posso distruggermi, insomma chi se ne frega, proprio perché questo spirito non c'è voluto, dico vabbè senti, sorrisone, prendo e me ne vado. E quindi avevo preso i biglietti per andarmene in Messico, dove io ho una terra che non vedo da 2 anni, che chissà cosa avranno fatto lì. E quindi mangiavo a pranzo, riunione, non ho più acceso TV, non me ne fregava niente perché ero convinto di non andare. E a un certo punto il telefono ha cominciato a impazzire, massaggi a manetta, ed era Mollica che aveva appena detto i nomi, aveva appena letto i nomi dei partecipanti. Ero l'ultimo, 14esimo ero io, e infatti ho detto oddio, non ci posso credere, da Twitter, pazzesco. Pura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e i baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala, insegui la tua storia. Tu sei un appassionato di ciclismo, Daniele? Ah sì, questa è pedala. Sì, questa è pedala. Sì, sì. Pedala. Io ci ho fatto delle... Si può parlare di politica questa settimana? No, nel senso che pedala. Ti ricordi? Renzi aveva detto che il governo Letta sarebbe andato avanti. Era come una bicicletta, quindi sarebbe andato avanti pedalando. Quindi la canzone, quindi, di Frankie e Energy era prevista per un altro governo? Sì, ma questa però era inedita. Questa era assolutamente inedita. La canzone di Frankie e Energy era inedita. Frankie e Energy, che quest'anno a Sanremo era come cantante, ma l'anno scorso si era presentato a Sanremo come twittatore. Ma in che senso twittatore? Aveva fatto il live tweeting. Esatto, era venuto qua a fare live tweeting. Allora l'abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto com'era stata questa esperienza di live tweeting. Frankie e Energy. Sì, sì, mi sono divertito parecchio, perché insieme a Stefano Rocco abbiamo inventato l'hashtag Spamremo e abbiamo animato l'account Twitter di Vanity Fair per tutta la settimana del festival. È stato veramente un'esperienza molto divertente. Un po' vedere un festival bello da... quasi da dietro le quinte, perché nella fossa dei leoni del Palafiori è stato parecchio divertente, ho conosciuto molte persone simpatiche e anche l'occasione per testarsi in una compiendo un'operazione frontale molto molto forte. Cioè noi abbiamo deciso di far debuttare l'hashtag alle 8 di sera della prima sera del festival, e dopo quei 5 giorni di gara siamo stati il terzo hashtag più diffuso, dopo quello ufficiale chiaramente della RAI, e un altro hashtag che adesso non mi ricordo, credo che fosse del Fatto Quotidiano, Santus Remus, che credo che fosse il Fatto Quotidiano, con una squadra di blogger che lavoravano dietro. Noi eravamo in 2 e insomma abbiamo fatto siamo arrivati terzi, insomma, un bel team. Quest'anno tu sei artista, autore, discografico di te stesso, quindi sarai anche social media manager di te stesso? Come sempre, sì sì sì. Ho appena completato ieri la grafica per il canale YouTube, insomma sì, mi diverte, mi è sempre divertito. Poi comunque sia, nel 1983 mio papà mi ha regalato un VIC-20 e da allora ho questa cosa... Sì. Spesso c'è un display tra me e il mondo, ecco. Lo dico ancora, come passa veloce il tempo quando ci si diverte, anche al Festival di Sanremo, anche nella sala stampa, da dove andate in onda eccezionalmente questa puntata di RadioTube. La prossima settimana dove andiamo? Non lo lo so, guarda, la prossima settimana ho un po' l'impressione che ci toccherà parlare un po' di politica, forse un pochino. Ah, quindi restiamo in studio, tranquilli, non c'hai mi porti gusto. In giro, c'hai preso mannaggia. Gusto. Vabbè, ce ne inventeremo ancora, la prossima settimana ci ritroviamo insieme, intanto ci sono sempre i nostri account di Twitter, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, il nostro hashtag cancelletto RadioTube, anche la Letizzetto fa cancelletto. Sì, con le dita, molto carino, anche se non va su Twitter. Cancelletto RadioTube, poi ricordiamo, iscrivetevi per cortesia al podcast di RadioTube, per questa settimana abbiamo concluso, ci ritroviamo alla prossima, chissà se parleremo ancora di Sanremo, se ne abbiamo avuto abbastanza, non lo so, decideremo. Alla prossima puntata. Ciao.